Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Scusateci tutte, è colpa nostra, è colpa degli uomini. Non abbiamo ancora imparato che siamo noi, noi uomini, a dover evitare queste tragedie, a dover sempre rispettarli, a dover sradicare quel diffuso sentire che vi costringe a stare attente a come vestite o a non poter tornare a casa da sole la sera. È un problema che parte dagli uomini e solo noi uomini possiamo porvi rimedio. Non è bellissimo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo appello, questa dichiarazione del Presidente del Senato Grasso oggi, avete sentito al TG1, che finalmente dice da uomo questo dei femminicidi, delle violenze sulle donne, è un problema degli uomini e soltanto gli uomini possono risolverlo. Ieri c'era stato l'appello della Presidente della Camera Boldrini su tutte queste violenze di cui stiamo parlando in questi giorni e oggi aveva detto, caspita, però soltanto le donne della politica e non solo delle istituzioni, della società, hanno risposto a questo appello. Gli uomini proprio nicchiano, non si fanno sentire, gli entra da un orecchio e esce dall'altro. E per fortuna ha compensato in questo modo il Presidente del Senato. Pensate se tutti gli uomini prendessero coscienza di questa cosa e dicessero queste cose e poi naturalmente si comportassero coerentemente poi nella vita. Questo a fronte tra l'altro di altri casi di cui dobbiamo parlare, nel senso che la quindicenne che ieri era stata gravemente ferita dall'ex compagno della madre oggi è morta, l'avrete saputo anche dai titoli, dai GR24, dai siti eccetera, e poi dall'autopsia di Noemi, l'altra ragazzina uccisa dal fidanzato nei giorni scorsi in Puglia, da questa autopsia è emerso che nella sua nuca c'è la punta di un coltello, del coltello che si è spezzato nella sua testa. Pensate quindi alla brutalità di questo omicidio. Torneremo quindi su questo e parleremo poi di politica, perché sembra incredibilmente che ci sia un accordo, almeno un accordo a quattro, sull'ennesimo testo della legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle non ci sta, dice che è un inciucio per fermare il movimento stesso. Intanto oggi ci sono le primarie che si votano online del Movimento 5 Stelle, ci sono stati dei ritardi, dei rallentamenti, per cui i risultati non si hanno adesso ma slittano alle 23. Quindi un sacco di cose ho da raccontarvi, poi il Papa con la sua autocritica sulla pedofilia. Per i vostri commenti lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Adesso, prima di approfondire tutti questi argomenti, vi racconto in sintesi la giornata. Legge elettorale, si profila un accordo a quattro sul Rosatellum bis tra PD, Forza Italia, Lega e Alternativa Popolare. Secco no invece del Movimento 5 Stelle, che parla di inciucio per arginare il movimento. Intanto oggi sono partite le primarie del Movimento 5 Stelle, voto a rilento per troppi accessi alla piattaforma Rousseau, dice il blog di Grillo, i risultati slittano alle 23. Terremoto in Messico, il bilancio dei morti sale a 250, molti edifici danneggiati, manca ancora una stima definitiva. Spagna, il governo catalano tira dritto, online da stasera le indicazioni per votare il 1 ottobre al referendum per l'indipendenza. La strage delle donne per mano maschile, morta a 15 anni, la quindicenne alla quale l'ex compagno della madre ha sparato in faccia. Il padre della ragazzina dice: lo denunciammo ma nessuno ha fatto nulla. E durante l'autopsia della sedicenne Noemi, uccisa dal fidanzato, è stata trovata una punta di coltello nella nuca della ragazzina. Pedofilia, l'autocritica del Papa, la Chiesa arriva tardi su questi crimini, mai darò la grazia, dice, a colpevoli di abusi sessuali sui minori. Ryanair, la compagnia aerea, incontra ENAC, che si impegna a facilitare i rimborsi per le cancellazioni dei voli. È morta Lilian Betancourt, la presidente del L'Oréal, era la donna più ricca del mondo, aveva 94 anni. Partiamo quindi dalla politica italiana. Si profila questo accordo a quattro sulla legge elettorale. Il relatore Emanuele Fiano del PD ha depositato in Commissione Affari Costituzionali della Camera il nuovo testo base della legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum 2.0, che prevede il 36% dei deputati eletti in collegi uninominali e il 64% con metodo proporzionale. Lo stesso testo è stato poi depositato anche al Senato. Brunetta di Forza Italia dice: è un tentativo serio questo, mentre c'è il secco no del Movimento 5 Stelle, che per bocca di Di Maio dice: è un inciucio per arginare il nostro movimento. Però proviamo dopo a capire qualcosa di più in questo ennesimo testo. E sempre restando sulla politica, oggi sono partite le votazioni per scegliere online il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti fin dall'inizio hanno trovato un po' di difficoltà nell'esprimere il loro voto, alcuni hanno anche ipotizzato un attacco hacker, ma il Grillo sul suo blog ha spiegato che ci sono stati troppi accessi alla piattaforma Rousseau e quindi i risultati sono posticipati alle 23 e poi da appuntamento a Rimini, dove sarà ufficializzato il nome del vincitore. Anche su questo poi cercheremo di approfondire sempre qui Effetto Notte. Domani il governo si prepara ad esaminare la nota di aggiornamento al DEF, documento di economia e finanza. Il testo punta sul sostegno ai giovani e oggi intanto ci sono nuovi dati sul lavoro. Governo al lavoro sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che domani dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri. Nel pomeriggio il presidente Paolo Gentiloni ha incontrato a Palazzo Chigi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan per fare il punto sul DEF, il documento che tratteggia il quadro di riferimento della legge di bilancio 2018. La nota di aggiornamento rivedrà al rialzo le stime del PIL per l'anno in corso dall'1,1% di aprile a un probabile 1,4-1,5%, mentre il deficit dovrebbe salire all'1,7-1,8 dall'1,2% stimato in precedenza. Il governo lavora anche alla manovra di bilancio 2018 che dovrebbe essere presentata entro il 20 ottobre e al momento oscillerebbe tra 20 e 25 miliardi. Le risorse a disposizione sono poche, ha detto nei giorni scorsi il ministro dell'economia, e le uniche misure per la crescita dovrebbero quindi concentrarsi sugli incentivi per le assunzioni dei giovani, la lotta alla povertà e per le imprese, credito d'imposta sulla formazione digitale. L'INPS intanto ha diffuso i nuovi dati sui contratti. Nei primi 7 mesi dell'anno nel settore privato il saldo tra assunzioni e cessazioni supera di poco il milione. In aumento assunzioni a tempo determinato e apprendistato, in calo invece i contratti a tempo indeterminato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la Banca Centrale Europea alza le stime del PIL, del prodotto interno lordo, della ricchezza del nostro paese, e dice che da migranti e dalle donne arriva un ampio contributo alla ripresa. Un bollettino, quello dell'Istituto di Francoforte, che era atteso perché il primo dopo la pausa estiva ed utile per capire le prossime mosse della BCE, trova conferma allora il rinvio all'autunno della decisione di come ricalibrare la politica monetaria per un'eurozona che continua comunque a crescere sostenuta dalla domanda interna, con il PIL 2017 che viene rivisto a più 2,2% rispetto all'1,9 precedente. I meriti della ripresa economica la Banca Centrale Europea li riconduce anche al contributo apportato alla componente lavoro da donne ed immigrati. Discorso valido, spiega il bollettino, soprattutto per Germania ed Italia. L'aumento della forza lavoro durante la ripresa economica viene spiegato è stato trainato dalla partecipazione femminile e dall'afflusso di lavoratori dai nuovi stati membri dell'Unione Europea. In Italia in particolare il tasso di disoccupazione è sì in diminuzione, ma non può essere definito un calo significativo. Infine l'inflazione con il probabile rallentamento verso la fine dell'anno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli aggiornamenti adesso dal terremoto in Messico è di 250 morti, il bilancio del sisma dello scorso martedì. Il responsabile della protezione civile ha sottolineato che secondo stime preliminari il numero invece degli edifici danneggiati oscilla tra 200 e 500 o 1000, dice dobbiamo ancora accertare il dato definitivo. E poi in Spagna, dove la Catalogna non si piega al pugno di ferro adottato da Madrid con il blitz di ieri contro il referendum per l'indipendenza, il vicepresidente catalano che ora ammette che ora organizzare la consultazione del 1 ottobre è un po' più difficile, ma dice andiamo avanti. Migliaia di persone intanto in piazza a sostegno del voto, mentre la magistratura indaga anche sulle spese sostenute per il referendum e l'Unione Europea da parte sua si schiera con Madrid. E torniamo più tardi con questo scontro così forte tra Barcellona e Madrid. Torniamo in Italia con la strage delle donne per mano maschile, morta la quindicenne di Ischitella vicino Foggia, alla quale l'ex compagno della madre ha sparato in faccia mentre andava a scuola. Il papà di lei accusa: quell'uomo minacciava noi, i nostri figli, ci siamo rivolti ai carabinieri, abbiamo fatto vedere i messaggi, ascoltare gli audio, ma nessuno ha fatto nulla, hanno permesso a quella bestia, dice, di fare del male alla nostra bambina. E il caso della ragazzina era seguito dal tribunale dei minori, che però si difende e dice questo fatto non era prevedibile. Poi ci ritorniamo. torniamo su questa vicenda. Intanto aggiornamenti anche dal femminicidio di cui è stata vittima Noemi. La punta di un coltello è stata trovata incastrata nella nuca di Noemi Durini durante l'autopsia compiuta 2 giorni fa a Lecce. Per questo motivo la PM inquirente del Tribunale minorenni ha disposto una nuova perquisizione nella casa del fidanzato 17enne della ragazza detenuto in Sardegna con l'accusa di omicidio premeditato. Nell'appartamento di Alessano è in corso da parte dei carabinieri della scientifica alla ricerca della parte mancante del coltello utilizzato per commettere il delitto. Pedofilia. La Chiesa è arrivata tardi ad affrontare i crimini della pedofilia, che sono una rovina terribile e provocano grande dolore e vergogna. Questa è l'autocritica del Papa durante l'incontro con la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, un intervento a braccio in cui Francesco aggiunge che mai firmerà la grazia per chi viene condannato per abusi sessuali sui minori. Anche su questo più tardi torniamo, anche perché c'è la vicenda poi dei clochard che sarebbero stati allontanati dal Vaticano. Ryanair si impegna, parliamo della compagnia aerea, a facilitare l'iter dei passeggeri per ottenere i rimborsi e gli indennizzi per i voli cancellati, lo ha comunicato l'ENAC, che ha organizzato oggi una teleconferenza con la compagnia aerea. Nei cieli anche le novità all'Italia. I commissari straordinari hanno prorogato sino al 16 ottobre il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, precedentemente fissato al 2 ottobre. E adesso a Genova, in chiusura, dove oggi si è aperto il Salone Nautico Orgoglio Italiano, ha detto Del Rio. L'industria nautica riprende il largo e sul Salone di Genova si riflettono luci e numeri che valicano anche le aspettative. Nel 2016 la crescita del fatturato è stata del 18,6%, tira la cantieristica, ma tirano un po' tutte le espressioni produttive del settore, con ricadute positive sull'occupazione. Così l'atmosfera che si respira in fiera è quella di una riscossa anche emotiva dopo gli anni tempestosi della crisi. Quasi 900 espositori da 32 paesi, 1100 imbarcazioni, molte in mare, una vetrina naturale che rende unico al mondo il Salone di Genova. Oggi è stato presentato anche il volume Nautica in cifre, a curarlo Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison. Al nostro microfono individua i fattori che hanno determinato la ripresa. Da una parte il mercato estero ha continuato a premiare la qualità del prodotto italiano. Nello stesso tempo il miglioramento del clima economico ha indotto anche il mercato interno ad avere più fiducia e a fare acquisti nel settore. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Francia, è morta a 94 anni Lilian Bettencourt, presidente del gruppo L'Oréal. A marzo la rivista Forbes l'ha incoronata la donna più ricca del mondo. Erede dell'impero L'Oréal fondato dal padre, gli ultimi anni della sua vita furono segnati dalla tentacolare saga di famiglia, ma anche politica giudiziaria, che porta il suo nome, il cosiddetto affaire Bettencourt, degna proprio di un romanzo di Balzac, una vicenda che a partire dal 2000-2010 segnò la cronaca della Francia. Per chiudere, lo sport con MotoGP, notizie più che buone per Valentino Rossi. Il primo mezzo miracolo è fatto, adesso Valentino Rossi deve completare l'opera e rendere il prodigioso recupero dall'infortunio patito facendo motocross nell'occasione di tenere aperto il sogno mondiale. 22 giorni, un record, ma non deve stupire perché il dottore ci ha già abituato a recuperi lampo. I medici della Dorna hanno dato l'ok al suo rientro nel Circus ad Aragon. Rossi non è al 100%, ovviamente, ma ci sono le condizioni perché salga sulla sua Yamaha testata già questa settimana e si getti nella mischia. Zero rischi hanno garantito, altrimenti il via libera non sarebbe stato dato. Lui è arrivato nel paddock con una stampella e sorridendo, affaticato ma pronto a trasformarsi in sella alla moto. Le prove libere diranno se ci sono i margini per vedere il fuoriclasse di Tavuglia in pista nel weekend, che significherebbe aver saltato solo la tappa di Misano dove Marquez ha vinto agganciando Dovizioso e allungando nella classifica su Valentino. Pensare di tornare in corsa per il mondiale oggi è prematuro, ma il giorno dell'infortunio con rottura di tibia e perone, Rossi aveva promesso che sarebbe tornato in fretta e ha mantenuto la parola. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, questa è la sintesi della giornata con le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Adesso cominciamo ad affrontare, dopo la viabilità, alcuni argomenti in particolare. Vedo già i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349 238 6666. un ascoltatore che ringrazio, che dice bel programma, dice se si accetta il concetto secondo, dice che essere antiviolenti include l'essere contro il femminicidio e la violenza sul genere femminile, vi dico timidamente che lo sono da sempre, non c'è bisogno che tu lo dica timidamente, anzi dillo con forza. Poi Gianfranco che diceva cosa dite, solo Grasso parla a favore delle donne, non ho detto questo, ho detto che se lo dice il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, diciamo è un bel esempio, è un bel modello, no? Da prendere a riferimento per tutti gli uomini che respingono la violenza sulle donne e sono per la pari dignità. Dice Gianfranco, gli uomini che non rispettano le donne sono una minimissima parte, tutti gli altri sono con le donne. C'è da sperarsi Gianfranco, ma guardarsi intorno non sembra proprio così. E poi c'è invece un'ascoltatrice che dice Giulia, dice cara Roberta, non aspetteremo gli uomini anche questa volta, dobbiamo essere noi ad alzarci tutte in piedi contro tutta questa violenza. E direi Giulia, hai ragione, ma ancora molta più forza farlo naturalmente donne e uomini insieme, come diceva Grasso, effettivamente prima di tutto un problema maschile, di cultura maschilista degli uomini. Ci fermiamo, ma ritorno a breve. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi, ricordatevi di accendere puntualmente alle 21 tutte le sere se volete essere costantemente informati su quello che succede, che è successo durante la giornata, avere un riepilogo e anche magari cercare di capire meglio alcuni temi magari un po' più complessi o che vanno effettivamente approfonditi. 349-238-6666, il numero per WhatsApp ed SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte dove vedo già molti vostri messaggi anche diciamo in risposta a quanto ha detto il presidente del Senato Grasso, che magari se c'è tempo durante la trasmissione vi faccio risentire. Adesso tra pochissimo parleremo di politica italiana, ci sono due fatti in primo piano, però se non avete acceso puntualmente lo sapete, qualcuno dice ma sempre questi titoli, ma non tutti sono puntuali all'appello e quindi ogni tanto io vi ricordo quali sono i fatti principali. Legge elettorale, si profila un accordo a quattro sul Rosatellum, ne parleremo tra pochissimo, così come parleremo delle primarie del Movimento 5 Stelle che sono ancora in corso. Terremoto in Messico, il bilancio dei morti sale a 250, molti gli edifici danneggiati, manca ancora una stima definitiva. Per quanto riguarda la Spagna, il governo catalano tira dritto, online da stasera le indicazioni per votare il 1 ottobre al referendum per l'indipendenza. E poi la strage delle donne, morta la quindicenne alla quale l'ex compagno della madre ha sparato in faccia, il padre della ragazzina accusa, dice lo denunciamo ma nessuno ha fatto nulla, e durante l'autopsia della sedicenne Noemi uccisa dal fidanzato è stata trovata una punta di coltello nella nuca della ragazzina. Per quanto riguarda la pedofilia c'è l'autocritica del Papa che dice la Chiesa è arrivata tardi su questi crimini, Ryanair che cerca una mediazione per facilitare i rimborsi per le cancellazioni dei voli, e poi è morta Lilian Betancourt, la presidente dell'Oréal, era la donna più ricca del mondo, aveva 94 anni. I due fatti principali oggi che ci offre dunque la politica nostrana sono le primarie del Movimento 5 Stelle e questo possibile accordo sulla legge elettorale, un accordo tra PD, Forza Italia, Lega e Alternativa Popolare. Saluto le due commentatrici politiche del Sole 24 Ore, Manuela Perrone e Barbara Fiammeri. Buonasera a entrambe. Buonasera. Proprio all'unisono. Buonasera. Allora inizierei da Manuela, esperta di Movimento 5 Stelle, che poi sarà a Rimini per seguire questa convention, come lo vogliamo chiamare, congresso. Manuela, come lo chiamano? Movimento 5 Stelle? Kermesse. La chiamano Kermesse. Chiamiamola Kermesse. Kermesse. Dunque, prima di questa Kermesse, allora, sono partite le votazioni online oggi per scegliere il candidato premier, il candidato a presidente del Consiglio, anche se è sembrato piuttosto lampante sin dai giorni scorsi e anche prima che è Di Maio, diciamo, l'unica figura forte, perché c'erano altri sette insieme a lui, dei nomi che, insomma, diciamo, decisamente poco conosciuti. Qualcuno ha ironizzato sulla rete Di Maio, i sette nani, eccetera, eccetera. No, però sembra che qualcosa sia andato un po' sulla piattaforma Rousseau, dove votano gli iscritti online, c'è stato qualche rallentamento. Quindi slitta il risultato alle 23, Manuela. c'è stato uno slittamento di 4 ore perché le votazioni avrebbero dovuto chiudersi alle 19 e ci sono stati incidenti che certo non sono stati graditi, perché ricordiamolo, la piattaforma Rousseau era stata già vittima di attacchi hacker durante l'estate ed era stata sottoposta a una revisione per migliorarne la sicurezza proprio fino a questi giorni, tant'è che questa è la prima votazione sulla piattaforma da moltissimo tempo. C'è un altro particolare che deve far riflettere, e cioè che visto queste primarie abbastanza scontate, cioè l'esito di fatto è veramente scontato, la cosa su cui il Movimento 5 Stelle adesso punta per comunque continuare a sbandierare il vessillo della democrazia diretta è l'affluenza. Per cui si spera che almeno un alto numero dei circa 130.000 iscritti abbia partecipato a questo voto. La decisione di allungare fino alle 23 dipende anche dall'esigenza di vendere, come dire, un'affluenza abbastanza alta per riprendersi dall'incidente dei candidati effettivamente poco competitivi. Abbiamo, Manuela, qualche dubbio che non sia Di Maio il prescelto? No, nessun dubbio. Assolutamente nessun dubbio, sia perché la competitor più nota è una senatrice, ma che non ha assolutamente avuto la visibilità che ha avuto Di Maio negli ultimi anni, anche semplicemente per il ruolo istituzionale che ricopre. Di Maio è il vicepresidente della Camera. E gli altri sei sono attivisti locali che non hanno assolutamente l'ambizione, ma neanche la preparazione per essere candidati premier. Comunque, insomma, per le 23 dovrebbe venire fuori questo nome. Sarà ufficializzato a Rimini. Manuela, sabato sarà ufficializzato a Rimini insieme al numero di votanti, e il Movimento 5 Stelle assicura che per 2 giorni i risultati delle votazioni di stasera saranno depositate presso 2 notai. Non si sa ancora, invece, non è stato comunicato se ci sarà una società terza a certificare la votazione. Annoso problema che riguarda, come dire, l'effettivo controllo, no, sui dati e sul numero di votanti e sulle modalità del voto da parte della Casaleggio Associati. Effettivamente la presenza di una società certificatrice esterna fornirebbe garanzie aggiuntive sul voto. Manuela, per chiudere, sono effettivi, fondati i sospetti, le ipotesi che ci sia uno scontro all'interno del Movimento 5 Stelle con Di Battista e Fico, soprattutto, che si sono messi da parte, ma forse non così in modo entusiastico, diciamo, così volontaristico? Le posizioni sono diverse. Di Battista ha sempre sostenuto la candidatura di Luigi Di Maio e la sua discesa in campo era stata inizialmente ventilata insieme a indiscrezioni che lo volevano comunque fare una rinuncia nel caso in cui fosse stato eletto lui. Quindi l'appoggio di Di Battista a Di Maio premier è scontato. Fico invece è tutt'altro, un altro discorso. Fico incarna un'anima molto diversa da quella di Di Maio all'interno del movimento, e il suo silenzio di questi giorni è un silenzio che trasuda rabbia, indignazione, e che in qualche modo bisognerà vedere se si ricomporrà, perché la frattura c'è e si è allargata, ma non tanto sulla candidatura di Di Maio quanto su quel passaggio che è stato comunicato soltanto in occasione delle diffusioni delle regole, che prevede il passaggio di testimone del ruolo di capo politico del movimento da Beppe Grillo a Luigi Di Maio, e non è proprio un dettaglio. Grazie Manuela Perrone, ci risentiamo. Grazie magari a voi. Per Rimini. Grazie Manuela. Invece Barbara Fiammeri, sembra cosa incredibile, ma c'è effettivamente questo accordo a 4, PD, Forza Italia, Lega, Alternativa Popolare. Movimento 5 Stelle ha detto subito di no, questo Rosatellum bis, poi Rosatellum 2.0. Mi sembra che con Latino e con queste cifre cose si cerchi di dare un po' più di dignità, forse. Non so perché bisogna chiamarli in questo modo, Barbara. Ma sì, diciamo che tutto nasce dal famoso Porcellum. Ma non era prima il Mattarellum, prima del Porcellum? Sì, anche il Mattarellum. In realtà è un po' che sono, questa tradizione. Sì, sono dei modi, insomma, per sintetizzare anche giornalisticamente un sistema che solitamente è molto complesso, quali sono solitamente i sistemi elettorali. E lo è anche questo, no? A parte la, diciamo, i tre dati principali, cioè che prevede che il 36% dei deputati sia eletto in collegi uninominali, il 64% con metodo proporzionale, poi c'è questo sbarramento del 3%, chi non supera il 3% non passa. Questo però, allora, per la Camera... No, il sistema, allora, questo sistema ha il pregio di uniformare Camera e Senato, questo sicuramente ecco. Ce l'ha. Infatti uno chiede pregi e difetti di questo testo. Il pregio è quello di uniformare il sistema di Camera e Senato. Mm. Un altro pregio, a mio parere, è quello che è chiaro che stiamo parlando rispetto ai sistemi con cui se no andremo a votare, altrimenti andremo a votare, ovvero i due sistemi che sono frutto delle sentenze della Consulta. Rispetto a quei sistemi certamente ci sarebbe un miglioramento, quantomeno in termini di ordine, appunto, una maggiore armonizzazione tra Camera e Senato, in quanto sia alla Camera che al Senato è previsto, sono previsti collegi uninominali e listini con le preferenze, senza preferenze, cioè listini bloccati, e la soglia è in entrambe le Camere al 3%, mentre oggi sappiamo che da una parte è il 3% alla Camera, al Senato è all'8%. Si incentivano in entrambi, in entrambe le Camere, le coalizioni, ci sono i collegi uninominali e non si prevede, qui andiamo sul tecnicismo, però ecco, pertanto per capire, rispetto per esempio al Mattarellum non si prevede il cosiddetto voto disgiunto, che è il motivo principale per cui MDP, il partito di D'Alema e Bersani, è contrario. Perché? Perché chiaramente quando tu hai i collegi maggioritari solitamente vengono avvantaggiati le forze maggiori perché sono più competitive in un collegio, no? Rossi, bianchi, rispetto a un partito che ha il 5%, io elettore tendo a votare a quel punto quel candidato che immagino ce la possa fare, difficilmente vado sul candidato di un partito che so che non arriverà più del 7%, perché viene fatto fuori, quindi diciamo premia un po' il voto utile e quindi le forze maggiori. Allora uno potrebbe dire, ma allora piace anche 5 Stelle? E no, non piace 5 Stelle, perché? Perché appunto, come ho detto, favorisce le coalizioni a livello nazionale e quindi i 5 Stelle che non hanno alleati né li vogliono avere sono penalizzati da questo. Sentiamo perché... Di Barbara, poi ti faccio sentire Toninelli, faccio sentire sì, l'ascoltatrice e l'ascoltatore. Sì. Facciamo degli esempi concreti, Forza Italia che si allea con la Lega e con Fratelli d'Italia, ma non solo, con tutti quei piccoli partiti, un po' al centro, un po' a destra, che oggi ruotano tra l'1,5 e il 3,5%, e tutti insieme però diventano molto competitivi, più competitivi magari del candidato dei 5 Stelle e quindi eccolo lì. Inoltre i 5 Stelle hanno il problema delle candidature, cioè ricordiamoci come sono state le scorse parlamentari, come le chiamano loro, cioè quando eleggono, cioè degli sconosciuti che arrivano in Parlamento. Con i collegi uninominali le facce contano, contano i nomi, quindi chiaramente se tu non hai dietro un nome forte, una faccia già spesa, rischi di essere penalizzato e per cui loro sono sempre stati contro i collegi. I collegi. Barbara, sentiamo a questo proposito proprio Toninelli del Movimento 5 Stelle. È una legge incostituzionale perché ha le coalizioni variabili, uno va a fa una coalizione al nord, lo stesso partito si coalizza al sud in maniera differente, non prevede le preferenze, una signora va a votare e la decisione sempre spetta alla segreteria del partito. In più mette tutto in mano a chi? Ai potentati locali, perché si basa tutto sul voto alla persona. Quindi le mafie, le clientele, le lobby locali, chi ha i soldi è colui che può decidere chi mandare in Parlamento. È una follia. Quindi questa è la risposta agli argomenti. Però Toninelli dice una cosa sbagliata, perché al contrario del sistema attuale, ricordo sempre delle due sentenze, eccetera, eccetera, non è vero che prevede alleanze variabili. La differenza proprio del Rosatellum 2.0 rispetto al primo Rosatellum è che lo ha coalizione a livello nazionale. Tu non ti puoi alleare con Alfano in Sicilia e con Pisapia in Lombardia, tanto per essere chiari. L'alleanza come potrebbe fare il PD, insomma. Sì, ho fatto questo esempio non a caso. No, l'alleanza è unica ed è a livello nazionale. Da questo punto di vista almeno un minimo di chiarezza c'è. Per quanto riguarda poi quello che lui dice rispetto al fatto delle mafie, io che sto contro il voto di preferenza dico che sono molto, è molto più facile che la mafia si possa insinuare in una lista di 30 persone come siamo stati abituati a votare ai tempi della Prima Repubblica, piuttosto che un candidato che è comunque riconoscibile, che gli altri partiti possono contestare, ad esempio perché è amico di personaggi poco dal passato poco edificante, insomma. Cioè, teniamo conto che le preferenze non ci sono in nessuna parte del mondo occidentale, parlo, mi sembra, non so se in Romania, insomma, però in nei paesi, cioè Germania, Francia non ci sono. No, non ci sono. Barbara, ti faccio sentire per chiudere anche da Torre di Movimento Democratico Progressista, sono i fuoriusciti bersaniani, insomma, dal PD. Stiamo cosa dice da Torre, perché non è d'accordo. È un imbrogliello, nuovo patto Renzi Berlusconi per avere ancora più parlamentari nominati. Riescono a superare il record dell'Italicum e ad arrivare al 67% di parlamentari nominati. E in più non c'è una vera coalizione, sono coalizioni farlocche in cui ogni partito presenta, come c'è scritto nel testo base, il proprio programma e il proprio candidato leader. Insomma, un vero e proprio pasticcio, se non un imbroglio. Quindi un imbrogliellum, dice da Torre di MDP, anche lui dice sono le segreterie alla fine che decidono, non c'è davvero la scelta. Ma diciamo coalizioni. Su questa storia delle preferenze, perché c'è molta demagogia, tutti i partiti, anche MDP, perché il segretario del PD allora era Bersani, insomma questo è un Parlamento di cooptati, nessuno si è messo lì, hanno fatto sì anche le primarie, anche il PD, poi insomma con tutta una serie di scandali che ci sono stati in mezzo, cioè che adesso tutti fanno le verginelle dicendo che vogliono che gli elettori scelgano, secondo me il modo per far scegliere un elettore è quello della chiarezza nelle liste. Quindi delle liste corte, e tant'è che la Corte Costituzionale su questo si è anche espressa, cioè è la riconoscibilità di chi tu eleggi, per cui in questo caso, nel caso di questo Rosatellum, che tra parentesi io ho molti dubbi che riesca a superare l'esame della Camera, ma comunque almeno ha il pregio che tu puoi avere in lista, nel famoso listino bloccato, da 2 a 4 nomi. Quindi li vediamo questi nomi, se a me non piacciono quei nomi, se ho dei dubbi su quei nomi, voterò qualcun altro. Chiaro, tanto avremo modo, ogni volta ce lo diciamo, di ritornare su questa saga. Grazie Barbara Fiammeri intanto. Ciao Barbara, buona serata. Ci prendiamo questa pausa, intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Livia dice: almeno i maschi che frequentano questa pagina, almeno loro dovrebbero confessare qui la loro vergogna di essere maschi e non aspettare che sia Grasso a farlo per loro. Fatelo qui ora, la vigliaccheria di chi ha ucciso Nicolina e la ferocia di chi ha ucciso Noemi accusa tutti. In realtà è... Livia, un aderire a questa cultura. Gli uomini c'entrano... Cioè, chi non aderisce lo deve dire con forza. È il momento davvero in questa emergenza sociale di far sentire la propria voce, di far sentire che si è al di fuori di questa cultura di sopraffazione e di violenza e che si vuole agire concretamente. Pensate che c'è stato ieri anche un tentativo di stupro, l'ennesimo, qui a Milano, ed è un tassista è riuscito a fermare questa aggressione chiamando i carabinieri. Ecco, già il fatto di non voltarsi dall'altra parte, per esempio, no? Molti dicono vabbè, sono fatti loro, io non mi ci immischio. In questo caso, benedetto sia stato il tassista. Chiara dice: è vero, tocca dare ragione al primo ministro israeliano Golda Meir, che era la prima ministra, che in una situazione analoga contestò la soluzione emergenziale prospettata, coprifuoco per le donne contro gli stupri, dicendo: gli stupri li commettono gli uomini, il coprifuoco va imposto a loro, non alle vittime. Venerdì 22 settembre, annunciazione, Radio 24 dalle 14 alle 15.30, puntata extra large di Tutti i Convocati. Avremo la Coppa dei Campioni, lei, proprio lei, sul tavolo. Ovviamente potete vederla diretta Facebook anche per questo evento eccezionale. Ce la porteranno per mano due che l'hanno vinta. Eh sì, Cafu e Kivu saranno i nostri super ospiti, ma ovviamente avremo anche Giovanni Capuano, avremo De Luca dietro al vetro e poi Dario Ricci che fisicamente ci porterà la Coppa, sarà proprio lui l'uomo che ce la porterà, e ovviamente tutti i vostri commenti, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle più belle, quelle più brutte, quelle dolci, quelle amare, quelle da gufi, perché c'è anche questo della Champions. Io mi faccio anche la barba per l'occasione. Io no. Vabbè, tu te la tieni. Dov'è la Coppa? A Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice se volete, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora ad approfondire le notizie, abbiamo parlato soprattutto di politica poco fa, adesso torniamo su una questione che è umana, sociale e anche politica alla fine, ritorniamo sui casi dei femminicidi, delle violenze sulle donne. Vedo un sacco di vostri messaggi che stanno arrivando sia al 349-238-6666 sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco ne leggerò altri. Intanto ringrazio Flavio che dice: fai bene a ripetere i titoli, io stacco tardi e li trovo di grande aiuto. Quindi non siamo egoisti, qualcuno dice basta, i titoli li ho già sentiti, ma ci sono altri che invece non riescono purtroppo a accendere puntualmente le 21 e quindi ve li ripeto molto velocemente i titoli principali. La legge elettorale, si profila un accordo a 4 su Rosatellum tra PD, Forza Italia, Lega e Alternativa Popolare, secco no del Movimento 5 Stelle che parla di inciucio. Intanto si stanno svolgendo sulla piattaforma Rousseau online le votazioni del Movimento 5 Stelle per scegliere il candidato premier. Per il terremoto in Messico sale il bilancio delle vittime a 250, in Spagna il governo catalano tira dritto per il referendum sull'indipendenza, ne parleremo dopo, e poi la strage delle donne per mano maschile, tra poco ritorniamo su questo argomento. L'autocritica del Papa sulla pedofilia, dice la Chiesa, è arrivata tardi. E poi la morte di Lilian Betancourt, la presidente dell'Oreal, era la donna più ricca del mondo, aveva 94 anni. Vedo per esempio Paola che scrive: ripristinare il Ministero delle Pari Opportunità abolito da Renzi. Poi qualcuno che dice: le donne devono andare in giro armate. Altri criticano Grasso, vi ho fatto sentire prima il passaggio molto bello in cui dice: siamo noi uomini che creiamo questo problema, all'origine di questo problema della violenza sulle donne, siamo noi che dobbiamo risolverlo. Dice quello che dice Grasso: sono solo chiacchiere ipocrite, faccia approvare una legge che dia l'ergastolo agli autori di femminicidio. Mentre invece qualcun altro apprezza le parole di Grasso dicendo che come Flaminia non erano previste, fanno piacere. E poi invece c'è qualcuno che Veronica che dice: se anche gli uomini per bene cominciassero a isolare quei certi uomini sarebbe più facile per le donne e per tutti. La collusione silenziosa nasce da una risata complice o da un'alzata di spalle di fronte a questi fatti o da un non ascolto di una madre che dice ai carabinieri che la figlia è in pericolo e il suo ex va in giro armato. Ecco, quindi questo ci dà appunto lo spunto per ritornare sui fatti, le violenze che sono susseguite in una sequenza incredibile in questi giorni. Allora, le notizie di oggi a proposito della povera Noemi in Puglia, è stato nell'autopsia che è stata fatta 2 giorni fa a Lecce, è stata trovata la punta di un coltello nella nuca di Noemi, questa ragazzina uccisa dal fidanzato di 17 anni con un coltello. Pensate quindi la barbarie, no? Addirittura di un coltello che si è spezzato nella testa di questa ragazzina. E la madre aveva denunciato, aveva detto che aveva denunciato più volte il fidanzato di lei perché era violento, perché era possessivo, perché varie volte aveva dato in escandescenze, no? E non era stata ascoltata, e questa è la fine che ha fatto Noemi. In qualche modo c'è sempre un filo conduttore spesso di denunce non ascoltate, anche nel caso della ragazzina di 15 anni a cui ieri l'ex compagno della madre ha sparato in faccia. Cercava la madre che lo aveva lasciato, non l'ha trovata perché si è trasferita in Toscana per rifugiarsi, e quindi ha sparato in faccia a questa ragazzina che oggi è morta. E lì il padre di questa bambina alla fine accusa anche le istituzioni, dice: noi l'abbiamo detto più volte, se ne era occupato il tribunale dei minori, abbiamo detto più volte ai carabinieri, abbiamo fatto sentire gli audio, abbiamo denunciato, ma nulla è successo. Allora voglio chiedere ad Antonio D'Amico, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Leggevo oggi di questo rimpallo, di questa difesa dal tribunale dei minori, servizi sociali. Sembra che questa famiglia fosse conosciuta da parecchi anni, però è vero che nulla è stato fatto per fermare questo ennesimo femminicidio? Come tutte le cose che accadono in Italia, c'è un rincorrersi di responsabilità, di accuse, di scaricabarile. È successo già in passato, tanti altri casi, femminicidio, stalking ed altro. Si ripete oggi anche con la piccola, la quindicenne uccisa a Ischitella in provincia di Foggia. È una questione di competenze tra Tribunale di Firenze, Tribunale dei Minori di Firenze, dove la famiglia risiedeva e dove la bambina, la ragazzina è nata, e il Tribunale dei Minori che oggi è intervenuto dicendo è una serie di attività da svolgere. Non è facile giustificare o dire che cosa accade, perché vanno verificate le notizie, vanno verificate le denunce. e accade sempre, si è ripetuto anche questa volta sul Vergani. Vorrei far sentire l'avvocata Giulia Bongiorno che cosa dice a proposito della giustizia attendista. Oggi era TG Sky 24 e dice il fatto che bisogna spesso, no, i magistrati, i tribunali, insomma, c'è questo non prendere seriamente l'urgenza della denuncia. Sentiamola. Allora lo dico un po' a tutti, alla destra, alla sinistra, sapete cos'è accaduto? Che serve un po' di attenzione e di competenza anche quando si scrivono le leggi. Serve avere calpestato la polvere dei tribunali, perché so che adesso si è preso atto di questi errori e che si provvederà. Quando? Probabilmente nella prossima legislatura, perché siamo a fine legislatura. E intanto chi ci rimette? Le donne. Quindi verificate se quello che dico io è vero, ma evidentemente ne ha dato atto anche il ministro. È stato fatto un errore. Su che legge? Sullo stalking. Credo che da un lato non si riesca a capire che la denuncia è una richiesta di aiuto immediato e non può attendere i tempi biblici della giustizia. Non si riesce proprio a percepire il senso di una denuncia. Assolutamente occorre dire basta a questo tipo di giustizia così attendista, una corsia preferenziale per le denunzie per violenza. Questa corsia preferenziale che si invoca da tempo, Antonio D'Amico, chissà se in questo caso effettivamente come siano andate le cose. Questa è la denuncia del padre della ragazzina che dicevamo, il Tribunale dei Minori dice non era prevedibile questo esito, però insomma la madre pare che avesse proprio pochi giorni fa detto mia figlia è in pericolo, no? Perché lei si era trasferita in Toscana, i figli erano ancora in Puglia con lui che girava, no, alla ricerca dell'ex compagna. Il problema, secondo il mio modesto parere, resta sempre lo stesso. E noi che siamo operatori dell'informazione, queste cose le conosciamo molto bene. Quando c'è il caso si parla, si fanno interventi. Il ministro, come oggi Orlando, ha promesso di volerne sapere di più su quanto accaduto in provincia di Foggia, ma poi i problemi restano. Di casi di stalking, di femminicidio o trasversale, femminicidio trasversale come in questa occasione, sono sempre all'ordine del giorno. Non c'è un diario giornalistico che non inizi con una violenza o comunque con un caso ancora più grave di femminicidio vero e proprio. Parliamo sempre, però, in fin dei conti c'è bisogno che ci siano i fatti. In questo caso le istituzioni e il legislatore dovrebbero dare più possibilità di essere coerenti e dare risposte concrete, ma allo stesso tempo dovrebbero indurre anche le istituzioni a essere più garantiste dei diritti delle donne in questo caso. Certo. Spesso e volentieri calpestate. Non è possibile dire sempre noi lo avevamo detto o stavamo lavorando. Bisogna intervenire. Grazie Antonio D'Amico, grazie con la forza che hai detto queste cose, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Antonio e buon lavoro. Buonasera a tutti. Grazie, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra le notizie principali dicevamo anche di questa autocritica di Papa Francesco, che è tornato su un tema spinosissimo per la Chiesa Cattolica, sottaciuto per lunghissimo tempo. Finalmente con questo pontefice sembra che sia un po' al centro degli argomenti della sua volontà riformatrice, la pedofilia nella Chiesa Cattolica. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, quindi un'autocritica e anche una specie di riforma detta indiretta praticamente in questo senso? Sì, diciamo che ha ribadito molte volte, lo aveva già detto, fatto, aveva istituito una commissione e diciamo così in questi 4 anni e mezzo è stato molto molto duro in alcune circostanze, quando ha ridotto lo stato laicale un vescovo che poi morì, se ti ricorderai ne abbiamo anche parlato in passato. C'è stato questo fatto recente di questo diplomatico presso l'annunziatura apostolica di Washington rimandato indietro perché avrebbe visto siti pedopornografici. Per questa vicenda diciamo ancora non si sa com'è. Comunque sia, lui oggi di fronte alla commissione che lui ha istituito ha detto andate avanti, anche perché questa commissione era stata, alcuni membri si erano dimessi dicendo noi chiediamo i documenti ma non ce li danno, e allora il Papa oggi che li ha ricevuti è stato molto molto duro, ma soprattutto c'è stato un passaggio in avanti, ha detto io non perdono. Ora il tema del perdono, come sappiamo, nella Chiesa Cattolica è un tema centrale e invece lui oggi è stato molto chiaro, dice chi me lo viene a chiedere tanto lo sa che io non glielo do il perdono, e quindi c'è, diciamo così, l'ha detto a braccio, non è un atto, come dire, giuridico, però lo dice il Papa, e quando il Papa parla sappiamo che è legge, diciamo. Senti, c'è anche un'altra vicenda, Carlo, questa dei clochard allontanati da San Pietro per ragioni di decoro e di sicurezza. Sì, evidentemente qui c'è stata una consultazione tra la Gendarmeria Vaticana e la Polizia Italiana, perché diciamo, il Vaticano, la Piazza San Pietro, tutte le aree che sono, anche se sono territorio vaticano, sono sotto la giurisdizione dello Stato italiano, questa è una regola antica del concordato. Quindi diciamo, per motivi di sicurezza, evidentemente non potendo poi controllare le borse eccetera durante il giorno, la Gendarmeria è stata invitata a dire che durante il giorno non si può sostare sotto gli spazi diciamo del colonnato, mentre la notte sì. Quindi evidentemente diciamo, da una parte il decoro forse, ma anche sicuramente la sicurezza, e quindi le due cose insieme. E forse anche, mi diceva uno questa sera, c'è il problema che anche quelli che sostano regolarmente lì i senza tetto, diciamo, loro stessi soffrono di questa diciamo sporcizia costante, che invece diciamo standoci solo la notte è più vivibile, ecco, diciamo così. Quindi purtroppo c'è anche un livello di vivibilità per chi vive lì, diciamo, le due cose insieme, anche perché sono tanti, e devi considerare che intorno in quelle aree c'è un flusso di turisti talmente enorme che spesso queste persone quasi vengono calpestate. E i turisti che vanno a San Pietro, anche se erano molto attenti, ecco. Grazie Carlo Marroni, ciao. Grazie Carlo, Roberta, ciao. Grazie, buona serata. Adesso con il nostro Sergio Nava ritorniamo invece sulla Catalogna, che vuole separarsi da Madrid. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri di questa regione nord-orientale della Spagna, che insomma diciamo porta grande ricchezza a tutto il paese, ha già un suo Parlamento, una sua autonomia, però vuole l'indipendenza. Il 1 ottobre Madrid ha il pugno di ferro, sta agendo in questi giorni. E va avanti, perché proprio stasera il presidente catalano Carles Puigdemont ha detto, prima ha messo online un sito per spiegare a chiunque debba votare domenica 1 ottobre dove andare, dove recarsi e come, quindi come se fosse una tranquilla e normale elezione. E poi stasera ha fatto circolare un audio nel quale dice: saranno giorni difficili per tutti, però andiamo avanti. E ha lanciato un chiaro attacco al governo del Partito Popolare, quello di Mariano Rajoy, addossandogli la colpa di quanto sta accadendo. E bisogna dire che effettivamente, per quanto abbiamo visto nelle ultime 48 ore, le mosse da Madrid hanno forse un po' oltrepassato una soglia. Poi ce lo dirà la storia se hanno fatto bene o hanno fatto male. Il risultato è che ci sono decine e decine di migliaia di persone in piazza, quindi è visivo il sostegno a questo referendum, non all'indipendenza in sé. Molti vogliono l'indipendenza, ma al referendum sì, è una situazione da leggere con molta attenzione. La lettura fa, ad esempio, l'Europa la ritengo personalmente un po' semplicistica. Cioè, l'Unione Europea dice: noi ci schieriamo con Madrid, col governo nazionale. Non può fare altro, chiaramente. Non può fare altro. Anche Parigi ha detto questo. Non può fare altro perché chiaramente l'Unione Europea è fatta da 27/28, ancora non sappiamo, tra due anni saranno 27 paesi. Che già fanno fatica a stare uniti, dici, se questi spezzano. E uno è la Spagna. Beh, ci sono diverse pulsioni separatiste, la Scozia per esempio, quindi diciamo ad esempio l'Inghilterra su questo appoggia la Spagna. Comunque è una situazione da leggere con molta attenzione, perché ce lo dico anche le stesse immagini che ci arrivano da Barcellona. E ci auguriamo naturalmente che le cose proseguano con diciamo meno cruente possibile. Assolutamente, sono comunque manifestazioni pacifiche, non dimentichiamolo, rose, bandiere e inni, quindi c'è un atteggiamento assolutamente pacifico. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Gli aggiornamenti poi alle 22.